Attenzione Gian Maria! Attenzione Gian Maria! Marino! Attenzione Marino! Attenzione Gian Maria! Dimmi sto, buonasera! Buonasera anche a lei! Ben sentito stasera! Beh! Come si va? Come si va stasera? Se prendeva! Tua gerellina, finivine sempre andendo. Sta sempre a fare, ma fa di bene. Non è mai troppo, Eva. Ti ha sempre tappato, di non si ridocca, Eva, lui. Andiamo, andiamo. Noi abbiamo sempre bene, ma è male, sto. Cosa devo fare, mi dicevo voci. Infatti è così. Andiamo sempre bene. No? Cosa vuoi fare? Il caldo e guardando la TV, cosa vuoi fare so? Infatti, al caldo e con la TV accesa, il volume che abbiamo di fronte a figlio. Sto guardando un film. Se guardavo mezzo bene, oh, film ne avevo già visto, ma è da un bene. Quindi vecchi, però ogni tanto qualcuno piace, vai. Infatti, ogni tanto bisogna abbaidare i burrovisci. Cioè che perdiamo la memoria. Infatti, per carità. Vabbè, saputo qualcosa di Bacchiglio? No, non ho saputo niente, ho provato a telefonare a Manzano. Non mi ha risposto nessuno. Ma se caso che la chiamo da buia via signora. Ehi cazzo, allora bisogna, ma è male strano che non rispondere, cazzo, tabù. Al telefono. Dovrebbero sentirlo il telefono. Oh, deve essere, o era fuori quando ho chiamato io. O era fuori o era dal marito, ma non mi va di entrare, quindi col telefono solo dalla roba alla guardia, non lo so se è ricoverato. Ma da quello Gian Mabili. Ma ricoverato a casa sua è? Non lo so Gian Marino, non lo so, non so nulla. Ma ci stavo chiamando a Marino per quello. Marino non risponde, no. Per carità, non so nulla Gian Marino, nulla che nulla. Otto, un attimino che hanno suonato, vai, ti chiamo io. Ok Gian Marino. Otto. Gian Marino, dimmi. Vai che per un sergente chiudo, vai, se sentiamo domani se Dio vuole. Ok, ci sentiamo Otto, ciao. Ok Gian Marino, ci sentiamo. Alle prossime, ciao Gian Marino. Attenzione, signor Marino!